Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. 25 settembre 2005. Federico Ardo Brandi, un ragazzo diciottenne, muore a Ferrara pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia. Il giorno dopo i giornali locali scrivono che la causa del decesso è un malore fatale, forse un'overdose di stupefacenti. Ma fin da subito emergono altre versioni, tutte discordanti. Le racconta Francesca Malaguti. Andrea, Michi, Burro e Federico sono appena tornati a Ferrara dopo aver passato il sabato sera con altri ragazzi in una discoteca bolognese. Sono le 5 passate da poco, l'aria è calda, si cammina volentieri. Federico, 18 anni, si separa dai compagni perché vuole fare a piedi l'ultimo tratto fino a casa sua. Non li rivedrà mai più. Non ha voglia di rientrare subito, telefona degli amici, forse vuole vedere se qualcuno è ancora in giro. Nessuno gli risponde, tutti ormai hanno spento il cellulare per andare a dormire. A questo punto c'è un buco di quasi un'ora, fino alle 6:10, quando alcuni agenti di polizia chiamano il 118. Riferiscono di essere stati contattati da una donna abitante in via Ippodromo, che ha visto qualcuno agitarsi in strada. Dicono di aver trovato il ragazzo che dava testate contro al muro. Poi raccontano di una lunga colluttazione, in cui cercavano di tenere fermo Federico in preda all'autolesionismo. 8 minuti dopo l'ambulanza arriva e trova il giovane a terra, con le manette ai polsi, a un passo dal cancello del galoppatoio, gli agenti di fianco a lui. Non ci sono margini per la rianimazione. Federico viene dichiarato ufficialmente morto. Luigi Andovrandi, zio di Federico, racconta il triste riconoscimento della salma di suo nipote e le prime versioni contrastanti della polizia. Io ero presente quando è arrivata una macchina della polizia con 2 poliziotti e un emborghese. Si sono presentati e senza mezzi termini, cioè non c'è stato bisogno di dire parole, si era capito subito e esplose la disperazione. Al momento, visto anche la situazione, i poliziotti non hanno detto cos'era successo, hanno detto solo una disgrazia, l'abbiamo trovato in un parchetto, nulla che ci facesse pensare a un'aggressione, a un incidente, noi pensavamo a un incidente stradale. Fatto sta, hanno chiesto se poteva venire una persona forte per venirlo a riconoscere, e da lì c'era un po', eravamo accecati dalla disperazione, però un po' il dubbio mi era sorto anche per dire come una persona forte. Poi parlavano di malore, di solito uno pensa a un malore, cioè una persona come la vedi, ecco, deceduta. Fatto sta che mi hanno caricato in macchina, mi hanno portato all'obitorio, lungo il tragitto mi ricordo che il poliziotto incominciava già a raccontarmi a piccole pillole quello che mi dovevo preparare a vedere, che un ragazzo sì, si era avuto un malore, però incominciava ad andare in escandescenza, ha fatto un po', ha dato qualche testata contro il muro, però nient'altro. Quando mi è stato presentato poi il cadavere, che è stato, me l'hanno scoperto, mi ricordo se l'ho scoperto io o me l'hanno scoperto loro, e lui è stato un incubo, cioè mi è rimasto nella memoria, mi ha fatto dormire non so per quanto tempo, diciamo c'era il cappuccio che nascondeva i suoi capelli ricci e il sangue, tutto quello che era tutto ben occultato dentro il cappuccio, insomma. Io però quello che ho visto bene, aveva un grosso ematoma a metà fronte, che poi dopo nella bara si era ridotto, non l'avevano mascherato, partiva dalla fronte e arrivava fino a qua nella regione temporale, li prendeva, quello l'ho visto bene, ed era di forma geometrica. Quando muore, Federico Aldrovandi ha 18 anni, compiuti il 17 luglio 2005. Vive a Ferrara, periferia sud, zona di via Bologna. Studia da perito elettronico, bravo in matematica e meno in inglese. Suona il clarinetto, fa karate. È impegnato in un progetto per la prevenzione delle tossicodipendenze. E il sabato sera, con gli amici, si reca spesso a Bologna. Accade anche il 25 settembre 2005. Con alcuni amici si reca al Link, uno dei più importanti luoghi di spettacolo del capoluogo emiliano. Il concerto reggae, quella sera, salta. Federico Aldrovandi sniffa roba esilarante, una smart drug, poi prende un francobollo di LSD. Nel sangue di Federico Aldrovandi vengono trovate tracce di oppiacei e chetamina in minuscole quantità. Nulla che possa giustificare un overdose o un comportamento aggressivo. Il giudice delle indagini preliminari di Ferrara ordina così una perizia. I test di laboratorio indicano che la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue è minima, ma la perizia esclude anche che il decesso di Federico Aldrovandi sia stato provocato da traumi. La causa della morte, secondo i periti, è asfissia. Si muove la famiglia di Federico Aldrovandi. Anche i legali di parte civile eseguono una perizia e scrivono: l'assunzione di modesti quantitativi di sostanze stupefacenti da parte del giovane, alcune ore prima della morte, pare avere efficacia causale assai discutibile. Dagli atti di polizia e procura emerge che dopo l'arrivo della prima pattuglia del 113 vi fu una violenta colluttazione tra il ragazzo e gli agenti, a cui seguì l'immobilizzazione forzata a terra, protrattasi per alcuni minuti, mentre almeno un agente di polizia gravava su di lui, comprimendogli la cassa toracica. Dal referto del 118, citato nella perizia di parte civile, emergono anche i tempi dell'intervento del personale sanitario. La chiamata dalla centrale operativa del 113 è delle 6.08. L'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medicalizzata partono alle ore 6.10. L'arrivo sul posto della prima risale alle 6.15 e della seconda alle 6.18. Dagli atti della polizia emerge che la richiesta di inviare un'ambulanza è stata radiotrasmessa dalla volante Alfa 3 alla centrale operativa del 113 alle 6.04, quando sul posto era già intervenuta la volante Alfa 2. Aldrovandi è rimasto a terra con braccia ammanettate dietro la schiena almeno per 11 minuti, dalle 6.04 alle 6.15. L'emergenza sanitaria deve essere precedente alla chiamata al 113. Il soccorso è stato dunque tardivo. Sulle cause della morte del giovane così concludono i periti di parte civile Giorgio Gualandri e Antonio Zanzi. Si tratta di un evento concausato, cioè dovuto a fattori tutti necessari, ma da soli non causalmente sufficienti, posto che la insufficiente assunzione di ossigeno è ascrivibile a aumentata richiesta di ossigeno indotta dallo stress psicofisico per la marcata agitazione psicomotoria e gli sforzi intensi posti in essere dal soggetto durante la colluttazione e per resistere alla mobilizzazione e forse, in minimale parte, dall'assunzione di chetamina. Ipotetica depressione respiratoria secondaria all'assunzione di oppiacei. Turbe della ventilazione polmonare prodotte dalla restrizione fisica in posizione prona con le mani ammanettate dietro la schiena. 15 marzo 2006. Arriva la prima svolta nelle indagini sulla morte di Federico Aldrovandi. La Procura di Ferrara iscrive nel registro degli indagati per il reato di omicidio preterintenzionale 4 agenti di pubblica sicurezza, 3 uomini e una donna, che la notte del 25 settembre 2005 erano in servizio nei pressi dell'ippodromo. 3 settembre 2006, la seconda svolta nell'inchiesta sulla morte del giovane di Ferrara. A questo punto interviene la politica. Il ministro dell'interno Giuliano Amato si reca a Ferrara, incontra il padre di Federico, Lino Aldrovandi, e chiede un rapido accertamento dei fatti, un rinvio a giudizio, un vero processo. Ma è stato lui che ha detto molte cose a me, mi ha raccontato questa cosa tragica così come lui l'ha vissuta, mi ha lasciato dei documenti che lui ha raccolto. Io gli ho assicurato che li avrei letti con grande attenzione e ho augurato a me stesso e ho augurato a lui che il giudice diventi la stessa decisione e che ne esca un processo nel quale la città possa in modo trasparente poter vedere e capire che cosa è successo quella mattina. Dopo la pausa, Giallo e Nero torna con l'omicidio di Federico Aldovrandi. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. La terza svolta nell'inchiesta sulla morte di Federico Aldovrandi è la partecipazione e la solidarietà. In tutta Italia, specie in Emilia-Romagna, nasce un movimento di intellettuali, scrittori, giornalisti che non credono alle verità ufficiali, come Carlo Lucarelli. Da questa vicenda si è andato in un modo, si è andato in un altro modo, che comunque è andata testimonia di un fatto che non deve accadere, testimonia di qualcosa di orribile che non può succedere, non è possibile che una persona venga fermata da una pattuglia per controlli e poi muoia. Questo può succedere se mi ferma la Gestapo nella Germania nazista, o se io sono un ragazzo di colore fermato da due poliziotti bianchi durante i riot di Los Angeles. Noi non siamo quel tipo di società, non può succedere a Ferrara una cosa del genere. E allora siamo in presenza di una cosa che è la testimonianza di un virus, di una malattia che c'è nelle forze dell'ordine. Se leghiamo questa vicenda con i carabinieri di Sassuolo, quando portiamo a Genova, poi andiamo qualche mese prima di Genova a Napoli, dove è successo il massacro di quello, mettiamo assieme tutta un'altra serie di altre cose che sono avvenute, di atteggiamenti, allora ci rendiamo conto che in effetti le forze dell'ordine, se così è, soffrono di una malattia che credevamo non che non ci fosse più, ma che ci fosse di meno, che è, vogliamo dire, un uso esagerato, vogliamo dire un uso sbagliato, diciamo una parola che racchiude tutto questo, una concezione fascista dell'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine. Oltre a questo c'è anche un'altra cosa che mi terrorizza, che è questo atteggiamento di dilazionare le cose, nascondere, aspettare, tenere nascosto tutto, come se ci fosse il timore che si venisse a scoprire qualche cosa che non doveva essere fatto. Quindi da una parte o una coda di paglia, un'enorme coda di paglia, oppure un atteggiamento tipico che è i panni sporchi ce li laviamo in casa, aspetta che mettiamo questo, tutte le cose. Insomma, questo tipo di atteggiamento qui è un'altra delle cose che mi terrorizza, perché fa parte di quel male che da sempre, che da tanto tempo abbiamo visto nelle nostre forze dell'ordine, che non ci deve essere. La riflessione di Carlo Lucarelli è più ampia. Coinvolge il nostro modo di fare informazione, il ruolo dei giornalisti nell'accertamento della verità e l'etica del mestiere di poliziotto. Dobbiamo assistere al fatto che le cose non si saprebbero se non ci fosse naturalmente una stampa libera e pronta a riprenderlo, come abbiamo visto, ma se non ci fosse soprattutto l'azione del cittadino e della società civile, come per le stragi, di cui non sapremo assolutamente niente se non ci fosse un comitato dei parenti delle vittime che ha fatto casino, ha rotto le scatole finché qualcuno non si è mosso. Anche in questo caso qui, senza il blog e senza questa azione, chi avrebbe dovuto fare delle cose non le avrebbe fatte. La gente continua a non capire che esiste una differenza tra polizia e criminali, che si può stare con la polizia senza stare con i criminali. Per i criminali intendo i poliziotti che fanno male le cose. Allora, anch'io sto con i carabinieri e anch'io mi ricordo e posso immaginare il terrore negli occhi, per esempio, di Boris Giuliano, capo della mobile di Palermo, quando Leoluca Bagarella, mafioso, lo uccide. E grazie, quella è la polizia. Sono d'accordo, è un mestiere difficile quello del poliziotto e del carabiniere, va benissimo. E però esiste una cura a questo stress. Esiste un'azione che deve fare l'amministrazione stessa, non le forze dell'ordine, per fare in modo che questo stress non esista, che ci sia un corretto atteggiarsi di fronte a quelle che sono le emergenze, altrimenti sarebbe come, e i cittadini bisognerebbe portarli questa metafora, vorrei vedere come cosa rispondono, sarebbe come dire di fronte ad un medico che ha ucciso il suo paziente e vabbè, poveretto, era stressato, nessuno accetterebbe questo tipo di risposta. Siamo il 23 settembre 2006, i migliaia scendono in piazza Ferrara, chiedono verità e giustizia per la morte di Federico Aldovrandi. Sono giovani, molti hanno da poco compiuto 18 anni. Patrizia Moretti, mamma di Federico, è in mezzo a loro. La città adesso sta, e la città risponde per me, è una giornata molto intensa questa, cioè, c'è tanta gente che viene da tante parti d'Italia, ma è soprattutto la risposta della mia città che non si è fatta mancare. È molto bello questo. Com'è stato questo anno? Durissimo, cioè è anche difficile focalizzare un ricordo, perché è stato davvero durissimo e sconvolgente da quel giorno di un anno fa. Poi è una tragedia che ti chiude la gola, io non so come siamo riusciti ad arrivare a questo punto, però sono molto contenta di questa risposta oggi, penso che finalmente qualcosa si muova. Questa giornata secondo me non è una conclusione ma è l'inizio, spero che davvero adesso le cose vadano avanti sulla strada della legalità e di un processo normale come abbiamo sempre chiesto. La risposta di tutte queste persone che chiedono insieme a noi la verità e la giustizia è la risposta che chiede tutta la società, è una richiesta civile, composta come abbiamo visto, così come sapevamo sarebbe stata, a differenza di quello che qualcuno temeva o prospettava, è la richiesta della società civile. E tra quei giovani che sfilano a Ferrara c'è anche il sindaco della città, Gaetano Satterreale, che aderisce alla manifestazione nonostante mille polemiche. C'è stata una piccola considerazione polemica quando abbiamo espresso la volontà come sindaco e giunta di partecipare alla manifestazione. Ma insomma, niente di più di questo, io credo che siano polemiche un po' pretestuose, il clima di oggi dimostra che avevamo ragione. C'era stato un appello importante alla famiglia in questa direzione, la nostra città è una città pacifica, una città abituata alla convivenza, ha subito una ferita in questi ultimi mesi e oggi è l'occasione giusta per voltare pagina e marginare la ferita. A livello locale è stato un trauma non ancora completamente superato. Si immagini che nemmeno negli anni più difficili, penso agli ultimi anni 70 o gli anni 80, era mai capitato un episodio nemmeno paragonabile a questo. E quindi per la città è stato un colpo forte, ecco. In un clima di convivenza, di collaborazione fra istituzioni, mai messo in discussione da nessuno. Io credo che dovremmo lavorare ancora per ristabilire questa fiducia reciproca, ma credo che abbiamo imboccato finalmente la strada giusta. Giulio Tiberi, rappresentante dell'Associazione Verità e Giustizia Peraltro. È un comitato che si è costituito nel periodo successivo a questo fatto e sta lavorando collettivamente per le forme, insomma, che vedete, per ristabilire verità e giustizia per questo ragazzo. Per cui insieme ad altre associazioni ovviamente, perché le violenze devono essere comunque condannate e i colpevoli assicurati alla giustizia, di qualunque parte si siano. Per cui è un'espressione, un'esigenza di giustizia fondamentale. Un ragazzo di 17 anni non può morire per un controllo di polizia, ovviamente, ma ci sono tanti altri fatti che si collegano a un'ingiustizia profonda nei confronti comunque di chi la legge dovrebbe tutelare. È una richiesta collettiva, non è limitata a questo fatto tragico e drammatico, riguarda la complessità della vita civile, della vita normale di un paese normale. L'Italia attualmente non è un paese normale da questo punto di vista. Da alcuni mesi Luigi Savina è il nuovo questore di Ferrara. In molti hanno percepito un vero e proprio cambio di stile, nessun silenzio, bensì il pieno accertamento della verità sulla morte di Federico Aldovrandi. Lo dice a chiare lettere Luigi Savina a Francesca Malaguti. Appena arrivato a Ferrara ha telefonato subito ai genitori di Federico e ha chiesto di incontrarli. Perché ha fatto questo gesto e come è stato accolto dalla famiglia? Ho sentito di fare questo gesto a nome dell'intera Polizia di Stato, della provincia di Ferrara, di tutte le donne e di tutti gli uomini della Polizia di Stato. Ho fatto un gesto di solidarietà ad una madre ed un padre che nella loro rimostranze hanno sempre detto di ritrovarsi nella legalità, lo stesso spirito che doverosamente opera questa questura. È stato accolto bene, sono venuti qui, la mamma è tornata una seconda volta, è servito a rasserenare gli animi soprattutto per una manifestazione, quella del 23 settembre. Agli atti la questura che cosa ha stabilito sul caso Aldovrandi? La questura ha rimesso tutti gli atti all'autorità giudiziaria, la questura opera, come ho detto, nella legalità, aspettiamo le determinazioni dell'autorità giudiziaria nell'assoluta convinzione che all'esito delle decisioni dell'autorità giudiziaria di qualsiasi livello tutte le parti interessate, la pubblica accusa, la parte civile e la difesa, ove non contente delle decisioni, potranno ricorrere agli strumenti previsti nello Stato di diritto. C'è stato un dibattito tra sindacati di polizia, ministro dell'interno, quando Amato è venuto a Ferrara, ha fatto una dichiarazione non recepita molto bene, cioè mi auguro che ci sia un rinvio a giudizio, i sindacati lo hanno ripreso e contestato. Lei ha un commento su questa vicenda? Volentieri, ma io non commento né i sindacati di polizia né posso fare commenti sulle dichiarazioni del ministro dell'interno. Ribadisco la mia piena e assoluta fiducia in autorità giudiziaria, che non è solo un aspetto, mi creda, formale. Ho lavorato per 25 anni con i magistrati di tutta Italia, dalla Sicilia a Venezia, a Milano, a Napoli, quindi li conosco, sono assolutamente convinto dell'equilibrio delle loro decisioni, le aspettiamo e doverosamente le accettiamo. Si può dunque morire a 18 anni durante un normale controllo di polizia? È la domanda che in molti si pongono, ed è lo stesso quesito che si ripete più volte Lino Aldovrandi, padre di Federico, che a suo figlio ha scritto una lettera. È qualcosa di più di un mero ricordo. Il ricordo che ho io di te è splendido, è un ricordo di una persona onesta, sensibile, sincera e corretta, maturata in 18 anni di vita, vissuta accanto a te ininterrottamente. Non a caso ho una fiducia incondizionata nei tuoi confronti, Federico. È proprio per questa immagine che ho di te, costruita fino a 6 ore dalla tua morte, che mi rende incredulo a quanto ti è accaduto. Non posso escludere che tu quella sera abbia potuto commettere degli errori, ma chi non li ha mai commessi, specialmente alla tua età? Cosa è successo, Federico, quella domenica mattina del 25 settembre 2005, tra le ore 5.30 e le ore 6.15? Quando ti vedevo sorridere mi sentivo veramente felice e progettavo con la mente il tuo futuro. Pensavo anche che avresti potuto un domani, studiando e magari vincendo un concorso, entrare a far parte di un corpo di polizia. Gli esempi ce li avevi, il papà nella polizia municipale ed il nonno carabiniere in congedo. Ma quella mattina qualcosa non ha funzionato. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline: dbiacchessi@radio24.it.